Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. L'entrata in guerra scombinò tutti i programmi e spazzò via tutte le piccole preoccupazioni come la mia. I liceali all'ultimo anno furono promossi o bocciati in base al voto dello scrutinio. Io avevo la media del 7 e la sfangai. Sono Margherita Hack, sono astrofisica, cioè un fisico che studia la fisica dei corpi celesti. E ora sono in pensione da 13 anni, però ho 90 anni e ho lavorato 50 anni esatti. Questa è una piccola novità della seconda stagione di Voi Siete Qui, cioè della stagione 2012-2013, che ogni tanto ci capita di inserire nelle storie che riceviamo e che raccontiamo quotidianamente in onda una persona che non si, la cui caratteristica non sia semplicemente quella di essere famosa, ma di avere qualcosa da raccontare. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma invece si chiama Voi Siete Qui, questo l'ho già detto perché ho parlato di seconda stagione. La cosa che noi cerchiamo di fare non è di intervistare dei personaggi famosi, cioè non è di avere degli ospiti famosi e magari cercare di fargli dire delle cose particolari perché ha detto così, no, semplicemente cerchiamo di trattare come persone, quali loro sono spesso, persone comune, delle persone che semplicemente sono un po' più note di quelle che abitualmente partecipano a questo programma. Lella Costa ha raccontato una sua storia per noi, Alex Bellini ha raccontato una sua storia per noi, Alex Bellini ha attraversato, vi ricordo, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, Aremi tra le altre. L'ho incontrato una sera dopo una sorta di incontro pubblico in cui facevamo sia io che lui una piccola presentazione e abbiamo fatto un viaggio di ritorno a Milano insieme in automobile. Mi ha raccontato che il suo prossimo progetto è quello di rimanere per 10 mesi su un iceberg che si stacca dal pack, no? Come si chiama? Dal pack e naviga lentamente verso gli Stati Uniti fino al momento in cui si scioglie. E gli ho detto: Alex, e quando è sciolto cosa fai? Niente, la casupola che io avrò sull'iceberg sarà anche, una volta ribaltata, galleggiante. Questo è Alex Bellini, abbiamo raccontato una storia sua e oggi invece è arrivato il turno di una, l'avete sentita dalla voce e l'avrete riconosciuta subito perché è inconfondibile, parla con un fortissimo accento fiorentino e dice delle cose abitualmente molto molto interessanti, ed è Margherita Hack. Con lei e con voi oggi vorrei parlare di, tenetevi forte, di libertà. 349-238-6666, non è una cosa che facciamo abitualmente questa, cioè non so se vi siete accorti, non so neanche se ci siamo riusciti a dire la verità, ma quello che cerchiamo di fare è di stringere molto l'argomento di conversazione, di non lasciarlo troppo ampio, non perché non si possa parlare di qualcosa di molto ampio, ma semplicemente perché questo programma è troppo breve per farlo, io probabilmente non sono abbastanza preparato per affrontare argomenti molto complicati, cerchiamo di restringerli e di andare al sodo, di andare di solito a un episodio della vostra vita, e questa è la storia di questo programma. Oggi però, proprio perché si parla con Margherita Hack, che è una scienziata e che spesso ha affrontato il tema della libertà e lo farà e lo fa in questa puntata mandandoci e raccontandoci una storia, una piccola storia legata alla sua infanzia e legata a quando andava al liceo e si è trovata di fronte al concetto di essere o non essere libera. Abbiamo deciso, proprio perché lo facciamo con lei, di lasciare apertissima questa argomentazione, quindi di chiedervi in un SMS o via Facebook se avete il profilo Facebook o via Twitter se avete il profilo Twitter, Voi Siete Qui R24, con l'hashtag libertà, giusto? Tiziano, l'hashtag è ovviamente libertà. Che cos'è per voi la libertà? 349-238-6666, altrimenti Facebook, altrimenti Twitter. Mattia mi scrive: la domanda è troppo difficile, penso che sia la possibilità di avere dei sogni, dei progetti di vita, dove gli unici limiti sono quelli che ci poniamo noi stessi. Virginia: libertà è poter avere delle opportunità. E ancora, la mia preferita al momento, quella di Giulia: libertà è poter guardare anche Beautiful senza qualcuno ti dica ma cosa guardi? 349-238-6666. Che cos'è la libertà per voi? Questa è la libertà per Margherita Hack. E così sono diventata antifascista. La dittatura alla fine si era mostrata per quella che era, e anche una ragazzina come me poteva accorgersene. Ricordo che nel maggio del 40,

Certo. Invece, cambiando discorso, secondo lei, anche per chi all'ascolto, proprio perché prima, no, cercavo di dire che il termine libertà è sovrautilizzato e spesso a sproposito, secondo lei, nella vita di tutti i giorni, di ognuno di noi, qual è il modo più semplice per perseguire la libertà? Ma di agire secondo i propri desideri, le proprie inclinazioni, entro il limite del possibile, di esprimere le proprie idee in una discussione senza paura di ipocrisia. Signora, come stanno i suoi gatti, i suoi animali? Stanno bene, loro sono liberi veramente. Io la ringrazio moltissimo per il pezzo di storia che ci ha regalato e per la chiacchiera e le auguro ancora un sacco di anni e lunga vita. 349-238-6666, libertà è dire sempre la mia. Marco da Verona, adesso la linea alla borsa. Oggi abbiamo scelto, forse è un caso come di solito succedono queste cose, di mandare in onda questa splendida puntata, questa splendida storia di Margherita Hack, anche per fare gli auguri alla nostra Margherita che compie solo 21, 22, 30. Avevamo detto di non dirlo, adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Non c'è veramente bisogno di descrivere una fotografia di Margherita Hack. Lo facciamo a questo punto davvero solo per esercizio di stile, perché fa parte di questo programma. È una foto in bianco e nero, quella che abbiamo caricato sul profilo Facebook e sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È in bianco e nero e lei ha il viso sorridente e un po' irriverente che ha Margherita Hack, con i capelli bianchi leggermente spettinate, un po' di rughe che le segnano il viso e non so, un'espressione che ti dà una forma o una sensazione di sicurezza. Libertà, sostantivo femminile, stato di autonomia essenzialmente sentito come diritto e come tale garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale, sociale, politico. Generico, la situazione relativa all'assenza di costrizioni o limitazioni. Negativamente, atto o episodio che rivela mancanza di controllo o di ritegno, riconducibile nei rapporti sociali o a eccessiva confidenza o a mancanza di rispetto. Etimo, dal latino libertas, libertatis, derivato di liber, libero. Data 1313-1319. Mentre Alessandra De Luca stava leggendo l'etimo di libertà, mi stavo veramente domandando se esiste un termine da cui arriva libertà. Insomma, si arriverà a un punto in cui una parola non discende da un'altra, ma una parola è quella che ha dato il senso a tutto, no? Cioè, avete capito cosa intendo? Grazie ad Alessandra De Luca che dirà, perché gli altri mi guardano come un imbecille. Ringrazio Tiziano Bonini che mi sta dicendo in cuffia che sono i nomoteti che davano. Nomoteti, filosofi greci. Benissimo, sto dicendo cose che non conosco da almeno 30 secondi, quindi la pianto qui. La cosa che conosco invece è che la storia che abbiamo raccontato oggi di Margherita Hack è tratta da un libro che si intitola Nove vite come i gatti, pubblicato da Rizzoli, che lei ha scritto con Federico Taddia, che è parte di questa squadra, di questa radio, quindi ci teniamo a salutarlo. 349-238-6666. Quando si parla di libertà, davvero i messaggi che arrivano dappertutto, via SMS, su Twitter, sono dai più laici ai meno, dai più pubblici ai più privati. Per cui Gianluca scrive su Twitter con l'hashtag libertà, la libertà è esprimere le proprie opinioni, grazie Margherita Hack. E poi invece Maurizio ad esempio sempre su Twitter scrive: libertà è avere un po' di tempo libero, egoisticamente parlando, stare da solo senza moglie e figlio e dedicarmi a me. Che poi io non ho mai capito esattamente, quelli che hanno dei figli o delle mogli o comunque hanno la vita piena di impegni familiari, che cosa intendano quando dicono dedicarsi a me? Un po' di tempo libero per me, non trovo mai delle cose da fare per me. Non lo so, poi magari mi troverò in questa condizione a breve, però libertà è non essere condizionati dalla nostra coscienza, scrive Federica. Libertà è un calcio nel sedere che ti spinge a fare quello che vuoi, Beppe. Libertà è accettare le mie sarà un errore del T9, immagino. Libertà per me è accettare la mia imperfezione umana di fronte all'onnipotenza di Dio. Bruno, libertà è conoscenza, è consapevolezza, curiosità che dà coraggio. Grazie da Roma. 349-238-6666. Quando abbiamo pensato al concetto di libertà, ci siamo detti, qua bisogna affrontare l'argomento da un punto di vista molto alto. Qualcuno che abbia parlato di libertà in maniera totale, per, come se fosse un'esigenza assoluta dell'uomo. E siccome i francesi, c'è poco da fare, la sanno un po' più lunga di noi da alcuni punti di vista, l'hanno inserito nella loro costituzione. Abbiamo dato un occhio, la storia della costituzione francese è lunghissima, cioè il diritto costituzionale francese ha 15 costituzioni, di cui alcune non applicate. Noi abbiamo scelto la terza stesura, risale al 1793, c'è una piccola introduzione e poi ci sono 6 articoli fino ad arrivare a quello in cui si parla di libertà. Il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo paragonare incessantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità. Il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Articolo 1. Lo scopo della società è la felicità comune. Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. Articolo 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Articolo 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge. Articolo 4. La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale. Articolo 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. Articolo 6. La libertà è il potere che appartiene ad ogni uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri. Essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge. Il suo limite morale è in questa massima: non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Je suis né dans la rue enfin disons que la tomate a effacé le gazon et le champagne c'était du fanta. Les jours de fête à table il n'y avait que ça. Passe la vie, passe le temps, passe la vie, passe la caravane et pourtant passe la vie, passe le temps, passe la caravane et pourtant. 349-238-6666, concetti e definizioni di libertà arrivano dappertutto, lo trovate anche sul profilo Facebook del programma ogni giorno, quello che abbiamo definito il dizionario di Voi Siete Qui, sceglie una parola che sia la parte fondamentale del racconto, della storia del giorno e la pubblichiamo, la leggiamo in diretta grazie ad Alessandra e la pubblichiamo sul profilo Facebook. Libertà e partecipazione ovviamente non poteva mancare, libertà e autodeterminazione, libertà e essere se stessi. La vera libertà è quella degli altri, scrive Beppe Dalodi e scrive anche che è una citazione, ma sinceramente non sa quale sia. Ma la migliore definizione di oggi non è una definizione, la dà sul profilo Facebook Gianluca, che dalla foto è un ragazzo giovane, credo attorno ai 15 anni. Dice: la libertà non so proprio cosa sia, però quando sento la parola libertà sono molto felice. Grazie a lui, grazie a Margherita H, a Tiziano Bonini, Margherita Ina, a cui ancora facciamo gli auguri, e a Paolino Corleoni. La storia di oggi era la storia di Margherita e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Andrea, vengo dalla provincia di Bologna, la storia di domani è la mia. Parla di trelli che passano due volte. Questa è la mia storia, io sono qui. Ci sono molti modi per ascoltare Voi Siete Qui. Uno è in diretta ed è quello che state facendo in questo momento. Ma se ve lo siete persi o se proprio non potete ascoltarlo, non disperate, ci sono i podcast. Se ad esempio vi scaricate i podcast di questa stagione, tenetevi forte perché potete sentire cose come queste. Vado. Tu, figlio mio, devi diventare un uomo. E diventare un... E... Scusate... E diventare un uomo... La rifaccio. Se invece queste cose vi hanno fatto schifo, potete sentire cose come queste. ci sono state condizioni in cui la profondità del mare era 10.000 metri, sono passato sotto una delle fosse più profonde che esistono sulla faccia della terra. E questa è l'avventura, accettare che ogni giorno si debba ripartire da zero. Perché sì, è vero che ogni storia è la nostra storia, ma scaricandocela in podcast la possediamo per sempre. Perché non ci facciamo un promo serio per sti podcast invece che buttarla in vacca come facciamo al solito?